oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera a tutti, radioascoltatori di Radio Alma. Siamo in diretta dal centro della Maison de Culture de Saint-Gilles, oggi 11 novembre 2013. E questa sera sono qui con la nostra squadra di Leandro, Tiziana. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo qui. Eccoli, ci sono. Quindi siamo qui questa sera per tenervi un po' compagnia. Quindi oggi l'11 novembre, come avrete notato i più attenti, i più astuti di voi, oggi è festa, in Belgio è festa, è rosso, perché si celebra l'armistizio della Prima Guerra Mondiale. Volevo, diciamo, condividere con voi questa informazione che ho scoperto da poco, quindi ecco, un po' di informazione. Brava Rossella. Eccoci. Informaci. Quindi, come no, acculturiamoci. E oggi è una bellissima puntata, ragazzi. Ebbene sì, Leandro, hai proprio ragione, perché abbiamo un ospite particolarissimo, veramente eccezionale, io direi. Eccezionale, veramente. Te l'ho insegnato, hai fatto bene, bravo Tiziano. Sì, infatti sì, ragazzi, abbiamo un punto di vista nuovo questa sera, però piano piano, innanzitutto diciamo che ci potete seguire in streaming dall'Italia su www.radioalma.eu. Poi abbiamo il numero di telefono, perché vi dovete fare sentire, ed è allora chiamate, interagite sempre, quindi mi raccomando, aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggini e i vostri commenti sulla pagina Facebook. Sì, esatto, la pagina Facebook Rossella, Leandro e Tiziana On Air. Ancora numero di telefono per chi in Belgio, quindi 02345 2656, per chi chiama dall'Italia 0032 2 345 2656. E chiamateci, perché questa sera io so che c'è un gruppetto che ci segue dal mio paese, so che ci sono un bel po' di persone in ascolto. Quindi, che dici Tiziana? Ricordiamo un po' perché questa trasmissione si chiama I colori dell'anima, perché dovete sapere che Tiziana è proprio brava a dirlo. Allora, introduciamo, allora, ricordiamo come sempre il significato della trasmissione, quello per cui è nata, diciamo, I colori dell'anima, per quale motivo? Perché si è pensato, l'idea fondamentale è quella che ogni l'anima umana, ogni persona ha diverse sfaccettature. E quindi ogni sfaccettatura ha un colore diverso, una sfumatura diversa. E allora con questa trasmissione radio noi cerchiamo di raccontare i diversi aspetti dell'anima umana, le diverse sfaccettature, dando voce a diverse persone, a diverse storie, lasciando raccontare quali sono le emozioni che sono nate in quelle occasioni nella vita delle persone, e lasciandoci coinvolgere in queste storie. Sì, Tiziano, dici proprio bene, diventandone parte, diventando noi un modo per diventando la voce appunto di queste persone e condividendo questi momenti che ognuno vive un po' nella vita. Ed è per questo motivo che di volta in volta andiamo a cercare e chiediamo ai nostri ospiti di darci un colore, il colore che caratterizza quella puntata, proprio perché siccome si racconta una storia diversa che ha delle sfumature diverse, avrà anche un colore diverso, ricorderà una sfumatura diversa dell'arcobaleno, diciamo. Esattamente, quindi ecco, ci piace un po' ricordarcelo, perché questa trasmissione si chiama I colori dell'anima, e questa sera abbiamo appunto un ospite. Vi diamo qualche piccolo, diciamo, informazione, ma senza svelarvi tutto subito. Abbiamo una prospettiva un po' diversa, abbiamo un punto di vista che di solito insomma è un po' più difficile da raccontare, perché come ben sapete spesso sono invitati a questa trasmissione, sono tutte delle belle storie chiaramente, ma sono spesso persone che abitano a Bruxelles, che si sono trasferite a Bruxelles. Invece da questa sera abbiamo qualcuno che viene da un altro paese e non si è trasferito a Bruxelles. In quale paese si è trasferito allora? In Italia! Sì, perciò noi ce ne andiamo e c'è qualcuno che viene. Per fortuna. E allora c'è chi va e c'è chi torna. Esattamente, c'è chi va e c'è chi viene, è proprio il tema di questa sera, ragazzi. E quindi io vi lascerei con una bella canzoncina. Esatto, e allora facciamo una cosa, introduciamo una delle canzoni della storia della musica italiana. Che proprio appunto per tutti noi, che c'è chi va e c'è chi viene, tutti viaggiamo, tutti siamo dei girandoloni. Esatto, esatto, e allora questo qua nel 1972 questa canzone vendette 1 milione di copie e ancora oggi i cantanti che la cantano, che ovviamente sono i grandi Nomadi, la suonano sempre nei loro concerti. Quindi, ragazzi, vi mandiamo in onda Io, Vagabondo, che non sono altro. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Rieccoci in onda, carissimi amici, su Radio Alma, www.radioalma.eu. Ci potete seguire in streaming, ci potete seguire a Bruxelles su 101.9, perché non l'avevamo ancora detto, eh? Seguiteci, fatevi sentire. Abbiamo già amici su Facebook. Tanti saluti a Marilena Cacioppo, ad Alessandra Mangiaragina e tanti auguri di compleanno anche a Piero! Auguri Piero! Grazie. Tanti auguri, vero? E tanti auguri, visto che ci siamo, anche al mio zietto che oggi fa il compleanno. E tanti auguri allo zio Mimmo. E come si chiama lo zio? Auguri zio Mimmo. Zio Mimmo. Aiuto, dovete sapere che lei è andata anziana, adesso stanno insieme e quindi non si spiccicano più da uno dall'altro e quindi pure ora ripetono zio Mimmo, ciao zio Mimmo. Ma sì, ecco, grazie per questa bella canzone, Leandro, ci ha lietato un po'. E ha anche introdotto il tema della nostra serata. Brava. Io Vagabondo. Esatto, perché dicevamo che parliamo un po' di gente che va e gente che viene. Perché, ecco, noi a Bruxelles siamo tutti expat, ci chiamano così, ci chiamano tutti gli stranieri che vengono a Bruxelles. E qui invece con noi stasera abbiamo una straniera di una bellezza disarmante che arriva invece da un paese più lontano e si è trasferita in Italia. Questa sera con noi c'è Sorina Ciobbano. Buonasera Sorina. Buonasera a tutti. Buonasera. Quindi dici un po', Sorina, da quale paese? Anzi, vogliamo mandare un contest? Da dove? Allora, chi sei Sorina? Raccontici allora, un po'. Io sono Ciobbano Sorina. Eccola. Eccomi. Allora, sono Giovanna Sorina, ho 31 anni, vengo dalla Romania e mi sono trasferita in Italia quasi 10 anni fa. Wow. E dove che sei andata esattamente in Italia, Sori? Dove la zona? In quale zona ti sei trasferita? In Sicilia. Yeah! Hai vinto! Come? Il mare pulito è bellissimo. Esatto, perché i nostri amici radioascoltatori sanno che siamo 3 siciliani a condurre questa trasmissione. Questa sera abbiamo una siciliana un po' speciale con noi. Sorina, esattamente da dov'è che vieni? Dalla Romania? In realtà sono nata a Balș, una piccola città. Come si chiama? Balș. Balș. Ho sentito Baci e già mi era piaciuto. È al sud della Romania, poi ci siamo trasferiti dopo la rivoluzione in una piccola cittadina e poi per la scuola in una grande città, Craiova. Craiova è una... Credo che sia un po' più riconosciuta. Sì, si suona, nel senso la conosciamo insieme a Bucarest, Craiova, però sì, ecco, sì, non sì. Sono... Non so se tutti hanno una buona conoscenza del paese. Più Bucarest che Craiova, in effetti. Ok. Sì. E quindi se ti sei trasferita in Italia 10 anni fa? Sì, più o meno 10 anni. E sei atterrata in Sicilia? Giusto, in Sicilia. Sei stata una masochista, perché? Come mai la Sicilia, Sorina? Ai tempi ero fidanzata con un ragazzo che sua madre viveva da tantissimi anni in Sicilia, quindi siamo andati a trovarla e poi per problemi familiari ci siamo trasferiti dopo un mese e mezzo. Ho capito. Insieme a mia madre e mio fratello. Ah, quindi siete in due, siete con la mamma? Siamo in tre. Sì, siete in tre, scusami. In tre. Sì, vabbè, la mia matematica è riconosciuta, è risaputa da tutti i nostri amici fedeli. Quindi siete andati a Memphis, sei stato tu, chi è che è stato il primo a lasciare il paese? Raccontami un po', perché sono stata io. E l'hai conosciuto quindi perché c'eri andata in visita? Io con ero andata in visita per un mese. E ti sei innamorata della Sicilia? Dopo un po'. Dopo ha capito bene la lingua, sì. Ah, sì. Infatti, perché Sorina mi raccontava che, ecco, diciamo... la cosa un po' più un aneddoto dura. molto interessante, che dicevo: Sorina, ma perché in Sicilia, ma insomma, come capivi la gente? E lei mi ha raccontato che realmente è stata un trauma, puoi dire, ecco. il siciliano è proprio sì. Com'è il siciliano, signorina? Vabbè, però parliamo della lingua, attenzione, specifichiamo. Perché comunque dopo anni e anni comunque riesco a capirlo. Magari non parlarlo perché è difficile, però molto... Adesso lo apprezzi. Adesso però lo apprezzo molto... Molto sì, di sì, più. Sì, molto però di immagino più. Che quando sei arrivata, insomma, non è che proprio lo puoi capire. Per me era arabo, perché io conoscevo leggermente l'italiano dalla televisione. Perché in Romania si prendono dei canali? Rai 1, Rai 2 si prendono, sì. Quindi... E spesso magari anche la musica italiana. Italiana, Eros Ramazzotti, che comunque lo conoscono in tanti. Sì, quello è italiano, effettivamente. Sì, quello italiano, arrivando in Sicilia a trovarlo con il siciliano. Senti, è stato un po' un trauma. Sì. Oddio, che parole ti hanno detto? Che qual è stata la tua reazione? Perché ecco, noi tutti sappiamo, andare in un paese e non parlare la lingua, insomma, non è proprio allora, semplice. Onestamente l'italiano non è difficilissimo, perché sono sempre lingue neolatine, quindi è facile magari non parlarlo inizialmente, però magari lo capisci, quindi... Però il siciliano è proprio una cosa araba che non si capisce. Senti, a proposito di lingue, mo facciamo una piccola, perché io sono una grande appassionata di lingue. Volevo chiederti se hai una parola preferita in rumeno. In rumeno sì, la mia parola preferita è mulțumesc, che significa grazie. Mulțumesc. Mulțumesc. Ma senti, Sorina, invece come si dice ti amo in romeno? Te iubesc. Ecco. Come? Te iubesc. Te iubesc? Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Lezioni di romeno a Bruxelles. Allora, io vorrei capire a quale ragazza rumena tu devi dire ti amo. Ecco. Che ti interessa mai? No, te lo dico a te. Te iubesc, dopo che impari il romeno. Ecco, mo inizia la famiglia Vianello, la famiglia di là, la prima puntata. Sì. Senti, ma allora facciamo una cosa: in nome di tutti quelli che viaggiano, di tutti quelli che vanno al di là dei confini, di tutti quelli che salpano l'oceano e vanno in terre lontane, allora lancio un'altra canzone di grande Manu Chao, una canzone che è diventata famosissima dal 2000 in poi. Clandestino. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su, i colori dell'anima. Rieccoci in studio, cari amici. Quindi dopo questa bella canzone che ci ha dato un po' di allegria, un po' di grinta, però ci ha fatto un po' riflettere, no? Insomma, il titolo di una canzone che lascia ben capire che c'è molta... Insomma, c'è molto dolore spesso nel lasciare il proprio paese, spesso si parte per motivi più svariati, per le guerre, per la fame, per la carestia, quindi ecco, ci ritrova in un paese spesso senza diritti, insomma non è facile. Questo è un tema di cui vorremmo parlare con voi una di queste sere, magari invitare un ospite speciale, ci stiamo preparando, ecco, ve lo sveliamo. Però ecco, questa sera chiediamo piuttosto, abbiamo appunto Sorina con noi, ti chiediamo Sorina. Io direi, dici. Una domanda che mi viene naturale, qual era la paura più grossa che avevi quando ti sei trasferita? Il pensiero, la preoccupazione più grande? Ma credo che la cosa più forte che si prova è... E non esserci con la tua famiglia innanzitutto, quindi essere la solitudine è la prima cosa forte che si prova, dopodiché è la paura di non essere capiti, poi c'è la lingua che non lo sai parlare, la difficoltà di trovare il lavoro, perché appunto si parte non per la felicità ma si parte per un motivo valido. E quindi ci sono una serie di paure, però inizialmente la cosa più brutta è la solitudine. Sì. E penso che noi italiani immigrati a Bruxelles ne sappiamo pure ecco. Qualche cosa. Sì, italiani sì. E romeni solo, sì. Mi sa che all'inizio vivono la stessa cosa. Di sicuro è vero, però è pure vero che noi a Bruxelles abbiamo una situazione un po' più avvantaggiata, perché ci sono dei gruppi di italiani... insomma qui arrivano italiani da tanti anni, quindi c'è una rete molto stabile che ti aiuta, che ti può dare dei consigli. E poi non dimentichiamo appunto il dettaglio forse più significativo, che noi siamo tutti cittadini europei, sì. E adesso anche Sorina lo sei, però sì. Quando sei partita 10 anni fa tu non lo eri, e quindi immagino sì, che non è stato... La Romania faceva parte della Unione Europea, quindi era molto difficile, difficile arrivarci, no, però era difficile trovare un posto di lavoro dove qualcuno ti faceva un contratto di lavoro, perché certo. Non era facile. E poi i documenti, comunque per fare i documenti ci volevano mesi e mesi. Ritorno all'ambasciata, un casino di fax mandati, perché io appunto sono stata messa in regola appena arrivata dopo un po' di tempo, però... Come funzionava? Raccontaci un po'. Realmente non mi ricordo tutto, però, so però che a grandi linee. C'erano per mesi e mesi, non ho fatto altro che portare documenti, attestare che sono, che voce, sì. La burocrazia comunque pazzesca. Benvenuta. Sì, sì, sì. Non solo che c'era un sacco di lavoro appunto per i documenti, ma il contratto si faceva solamente per 6 mesi, mm-hmm. Un anno. Okay. Tempo secondo me molto minimo. Rispetto a tutto il lavoro che c'era dietro, mm-hmm, però è così, certo, dici adesso, sto un anno a sbrigare le carte, poi 6 mesi sì, posso lavorare, magari voglio ritornare, poi non è così, sì. Mm-hmm. Senti, ci sono stati, immagino, all'inizio dei momenti duri, ti sei trovata in situazioni un po' imbarazzanti, sì, ha colto il siciliano medio, ecco, diciamo così. Allora, la parte bella è che la Sicilia comunque è molto calda, le persone sono appunto molto molto gentili, ti ricevono veramente con hanno un cuore grandissimo, però le difficoltà ci sono sempre, perché sempre sei in un paese straniero, sei sempre la straniera ovunque. Chiaro. Vai, non hai le radici, quindi questa cosa ti fa sentire non adatto al posto, ecco, quindi non so se magari loro, però le difficoltà ci sono forse dentro di noi più che altro. Poi mano a mano che uno va avanti, che conosce, che si fa conoscere, cosa che è molto importante, magari ci riesce a legare tantissimo, a farsi, diciamo, valere, sì. Amicizie nel mondo di lavoro, in qualsiasi luogo, ed è importante. Mm-hmm. Certo, no, è vero, Sorina, cioè tutti lo sappiamo all'inizio, lo scoglio. Bisogna conoscere le sfumature, ecco. Sì. Bisogna entrarci dentro, cioè in senso bisogna piacerti e voler vivere e conoscere comunque a tutti, perché il buono cioè è importante conoscerlo, il buono è si trova, bisogna ecco, scoprirlo, ecco. Ma è così, le cose buone, le cose belle prendono sempre molto tempo e hanno bisogno di impegno. E le batoste comunque ti fanno a un certo punto bene. Sì, le batoste fanno crescere, sono d'accordo. Ma con quando te. Sei venuta già sapevi parlare l'italiano o l'hai imparato quando sei arrivata in Italia? No, l'italiano l'ho imparato stando qui, però inizialmente comunque lo capivo bene, perché cioè, bene in senso il minimo, diciamo. Poi piano piano comunque poi vai, ascolti la televisione, la radio, e la cosa viene un po' più naturale. Uh-huh, certo. Hai imparato prima l'italiano e il siciliano? No, io il siciliano non lo so parlare. Non ancora, dai, non Sorino. Ancora, perché mi sembra difficile. Ogni volta quando magari provo a dire qualcosa in siciliano ridono tutti, perché un accento rumeno detto in siciliano secondo me non va bene. Almeno loro così dicono. No, non capiscono. Ma bella, senti. Invece che cosa ti volevo chiedere, Sorina? Ma ad esempio, no, noi quando siamo andati via dall'Italia, ma tutti, insomma, quando lasciamo il proprio paese, arriviamo in un posto nuovo, ci sono sempre delle cose un po' sconvolgenti, diciamo. Ad esempio, noi quando siamo arrivati qui, almeno io, sono rimasta scioccata dalle file, dalle code di gente all'aperto, perché hai avuto modo di vedere a Bruxelles, sì. Che sei venuta in visita, quindi ci sono queste fritterie dove vengono le patatine, la gente va lì e fa la coda per ore e mezz'orette con la neve. Sì. Ecco, vabbè. Per noi questa cosa era un po' strana, o ancora la gente comunque è più, non è molto, diciamo, allegra come noi, quindi ci sono delle cose che subito, no, dici, La gente che mangia un panino al volo sempre, noi invece italiani, figurati, ci dobbiamo sedere, no, dobbiamo cucinare, brava. Quindi ecco, invece mi chiedevo, a te cosa è successo? Quali sono state le prime cose? Ad esempio, no, sei arrivata e hai detto, ma questi sono pazzi, si mangiano la pasta pure nel caffè la mattina. Vabbè, questo sì, perché da noi non si mangia la pasta, ecco. Questo sicuramente. Però poi, anche se inizialmente il pesce, la pasta, tutto questo cibo, tanto, magari troppo, che poi magari inizialmente sembra una cosa, che cos'è? Poi inizi a amarlo, ecco. Quindi all'inizio adesso eri sconvolto. Adesso io non posso farci almeno senza la pasta. Cioè per me la pasta è la cosa, il pasto essenziale, il caffè espresso, il corto, stretto. E che cos'è? Brava, ti sei italianizzata, si può dire, dai. È vero, perché da noi c'è il caffè lungo, il caffè ristretto, sì, il caffè... In tazza di vetro. Si è allungato. Poi... per forza. No, quindi, poi Sarina... Ecco, l'ho rifatto. Sarina, non ti hanno mai chiamato così. Sì, infatti c'ho tante amiche che ancora mi chiamano Sarina. Ecco, io ero una di quelle, perché appunto con Sorina, adesso l'ho imparato, però all'inizio, ecco, era la perenne Sarina. Sì, perché in siciliano è appunto Sarina. Sì, è un nome molto usato. Senti, ma Sorina vuol dire qualcosa? Sorina, diciamo che non è un nome che... sì, significa, viene dal sole, però non è un nome più maschile che femminile, infatti il maschile è Sorin. Non ce ne sono tantissime ragazze, non è un nome comune in Romania, però è un nome un po' più... Comunque è usato. Sì, è usato Sorina. Moltissimo maschile, meno un po' di meno femminile. Al femminile. Sì. E tu però mi dicevi che ti chiami Ciobano, Sorina, Florina. Anche Florina, sì. E ci piace a noi, perché fa pure rima. E come mai due nomi sono... È un'usanza nostra, sì, perché la maggior parte hanno appunto due nomi, cognome e due nomi. Pochi sono quelli che hanno... E i nomi vengono dai parenti, come ad esempio noi facciamo... I parenti stretti. Sì, noi lo facciamo spesso con i nonni. Sì. Noi un po' sulla... diciamo sull'amore verso qualcuno un po' di più rispetto agli altri, ecco. Infatti io prendo il nome da mio zio. Ho capito. Senti, invece ci stavi dicendo, tu sei arrivata la prima, e poi sei arrivata sola, sì, sono arrivata atterrata in una terra bella. Un po' sola, sì. Sei stata un po' sola, e poi quando è che sono arrivati gli altri? Dopo pochissimo tempo, dopo credo 2 mesi, non più tardi, sì. Che poi inizialmente era una cosa che doveva essere di poco tempo, alla fine è finita per 10 anni. Certo, tu quindi all'inizio non pensavi di stare così a lungo? No, perché era una cosa che doveva essere tipo 6, al massimo 3 mesi, 6 mesi, così. Non si pensava di rimanerci per così tanto tempo. Leandro, fa segno, Leandro, c'è. Sì, sì, io ricordo a tutti i nostri radio teleascoltatori di praticamente seguirci, ovviamente, e scrivere su Rossella Tiziana e Leandro Neri, la nostra pagina Facebook. E adesso alla nostra carissima Sorina vorremmo fare un regalo a lei, ma anche un omaggio alla sua terra, alla Romania, lanciando una canzone romena, però chiederemo proprio a Sorina un aiuto. Introdurla, sì, e di dire il titolo. La canzone si intitola In Umbra Mare Lui Urs, cantata da scusate, Phoenix. Ok. Allora, ripeti il titolo, Sorina? Numbra Mare Lui Urs. Perfetto, grazie, ecco a voi. Oggi dico che colore sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci, ciao ragazzi. Allora, forse, non lo so, in quante altre puntate praticamente nella trasmissione italiana si è sentita una canzone romena. E in effetti su Facebook già abbiamo le prime reazioni. Che succede? Aggiornaci, Leandro. Niente, Carla ci chiede, ma chi è Ligabue rumeno? Anche altri ci hanno contattato, ci stanno seguendo in tanti, però io voglio ricordare che c'è anche la possibilità di telefonare dal Belgio naturalmente allo 02 345 2656, oppure scrivete su Facebook la pagina Tiziana e Leandro, Rossella Tiziana e Leandro On Air. Interagite con noi, fateci sapere cosa ne pensate di questa bellissima puntata e di questa bellissima storia che noi stiamo ascoltando. E poi volevo appunto chiedere a Sorina, questa canzone io non capisco niente di romeno, però vedendo su internet c'è una traduzione in inglese, quindi praticamente se la traduzione è giusta è una, insomma, ho letto che è una canzone molto poetica che dice: le foglie sono cadute dagli alberi, la tempesta le ha disperse, e le speranze, dove sono le speranze? Non ne abbiamo più. Perché praticamente, ecco, a cosa si riferisce? Qual è il contesto di questa canzone? Perché ce l'hai scelta, Sorina? Parlacene un po'. Intanto perché è una canzone molto... Intanto parla, credo, della solitudine di chi si trova solo una volta partito, senza la famiglia. Infatti lui richiede nella canzone: perché sono andato via e quando mai vi rivedrò. In realtà la canzone si intitola nell'ombra del grande orso, ma che orso qui in realtà è l'impero sovietico, immagino, sì, il blocco sovietico. Sì. Quindi noi eravamo all'ombra dell'impero sovietico, appunto. Sì, c'è proprio un gioco di parole, perché si chiamano orso. Un gioco di parole. Che ci spiegavi, è orso, ma sì, è anche orso qua prende la... cioè la Russia in realtà, uh-huh. E poi come nome URSS, poi si aggiunge un'altra S, ed eccolo. Per bene, sì. Senti, ma quindi tu, Sorina, tu sei stata, appunto, hai vissuto in Romania durante la dittatura sovietica? Forse da bambina? Ero bambina, sì, avevo 8 anni quando c'è stata la rivoluzione, sì, però mi ricordo benissimo tutto. Raccontaci un po', perché è bene sentirlo da qualcuno che l'ha vissuto, perché sai, noi leggiamo nei libri le cose, però è bene sentire nei giornali, però il punto di vista di una persona che l'ha vissuto in primo piano è diverso. Non mi ricordo. Con precisione, vabbè, chiaro, eri piccolino. No, mi ricordo per bene, in realtà, tutto. Ah, sì? Mi ricordo per bene, però non mi ricordo, non era un brutto ricordo. Ma neanche un bel ricordo, perché io mi ricordo avevamo 4 ore di luce al giorno, mattina 2 ore, la sera 2 ore. Luce elettrica? Luce elettrica, sì, la televisione 2 ore al giorno, dove si vedeva solamente Ceausescu e qualche cartone bulgaro. Ceausescu era il dittatore della Romania, no? Sì, il dittatore Ceausescu. Quindi delle, una vita... asilo, scuola, si beveva solamente, non esisteva la Coca-Cola, si beveva la citron, qui. Ecco. Quindi, tutto chiaramente autoprodotto. Sì, sì, ma era come l'aranciata Tomarchio siciliana? più o meno così. Dici, poi invece quando sei venuta in Sicilia, ecco, quali sono le cose simili invece, non le differenze, ti hanno fatto sentire, dici, ma questi qua, insomma, sembrano un po' come noi, insomma, quando qualche cosa di simile. Tipo l'aranciata, la citronella. E soprattutto, ti piacciono i ragazzi siciliani? Di sì. Certo. Leandro è andato a toccare un punto che affronteremo ben presto, perché appunto tu hai anche trovato all'amore in Sicilia. Sì. Senti, ma io invece volevo tornare appunto alla tua vita da piccola in Romania, perché adesso tu ci hai raccontato appunto una storia che noi non conosciamo, perché noi potevamo vedere tutta la TV che volevamo, tutta la luce che volevamo, qualsiasi cosa, però tu ci hai detto che appunto non è un ricordo negativo, quindi c'erano gli aspetti positivi, delle cose belle, sempre quali sono i ricordi dolci che hai? Comunque lavoravano tutti, quindi ogni famiglia aveva il minimo, però c'era il minimo, quindi quando c'è il minimo secondo me si può vivere. Dopo che c'è stata la rivoluzione, la democrazia, comunque la gente è diventata troppo povera e troppo ricca, non c'era più la persona media, non il benestante, però la persona che possa mangiare tranquillamente e dormire tranquillamente, perché domani tutto andrà bene, okay. Ecco. Chiaro. Senti, poi tu ci raccontavi che appunto ti ricordi di quando è iniziata la rivoluzione, perché ti ricordi gli studenti che facevano, che andavano in giro a cercare le bandiere. Vedevamo tutto alla televisione, perché la rivoluzione è iniziata a Timișoara, quindi una zona un po' più lontana rispetto a queste. Timișoara è più ad ovest, è più vicina all'Italia. Bucarest è un po' di meno nella zona dove abitavo io. Come mai? Perché è una zona più... Diciamo, nelle città universitarie piuttosto, lì era una zona un po', cioè una piccola città dove non neanche c'era l'università, onestamente, quindi... È chiaro, sì, questi movimenti di solito nascono nelle grandi città, dove c'è fermento culturale. Si è trasformata appunto in tutta la Romania, però di più appunto è nelle grandi città, dove c'erano... i più giovani, sono quelli che hanno iniziato, questo movimento di rivolta. Ho capito. Sì, la rivolta, poi l'armata che poi finalmente si è messa con loro e hanno, diciamo, sì, sono riusciti a cambiare le sorti del paese. Sì. Senti, che bello sentire queste cose. Ma invece poi, dopodiché, è iniziato un periodo di democrazia, che poi immagino la democrazia è sempre si tende verso la democrazia, verso valori sempre più democratici, però ecco. Valori democratici, quando secondo me c'è una base, c'è una buona base della libertà, perché non avendo mai nulla, ritrovandoti con tutto, secondo me poi si sbaglia nel scegliere, diciamo, il buono, le scelte, non ha... Sì, mi capì. Sorina appunto diceva che senso, da un giorno all'altro puoi avere tutto, ad avere tanto, non capire cosa farcene con quel tanto. È facile. Secondo me tutto deve essere un po' non studiato, cioè che te lo insegnano, ecco. Ho capito. E poi magari sai cosa farcene con la libertà. Certo. Trovartela così. Sì, un po'. Ma io vorrei sapere, però, i ragazzi siciliani allora. Mi stavo un pensiero. Allora, prego Leandro, perché sono curioso. Allora. Non lo potete tenere, lo sapete. No, io sono qui curioso. Che sta sbraitando. Sono curioso. Che poi voglio curioso. Dire, lo voglio sapere pure io, che sono io, perché io allora, in Sicilia, sono interessata. No? Dopo che tu, insomma, giustamente, come ci hai raccontato, hai avuto, insomma, anche periodi difficili, no? Però mi sembra che anche hai trovato qualche cosa di molto bello. L'amore. E qualcuno di molto bello. Sì. Raccontaci. Chi hai conosciuto, Sorina? Dici tutto. Il mio ragazzo è siciliano? Sì. 100%. E di dove? Proprio Menfi, dove abito io. Sì, perché infatti non abbiamo detto, Sorina, abbiamo detto che sei andata in Sicilia, ma non abbiamo detto dove. A Menfi, provincia di Agrigento. Provincia di Agrigento, sì. Esatto. Sì. E quindi lì hai trovato anche l'amore, hai trovato Piero. E sentiamolo. O meglio, Piddirino. Piddirino! Piddirino. Che praticamente è il modo di chiamarti a Menfi. Praticamente io sono scritto all'anagrafe Pellegrino. Ah, ecco. Però ecco. Perché mio nonno era Pellegrino, e quindi... Piddirino. Ah, allora no, ma di Pellegrini, vabbò, siamo lì. Vagabondi. Pellegrini, ecco. Scritto nel destino. In milanese mi chiamano Piero, praticamente. Allora, qualcuno che ti chiama Piero c'è, bene, Piero. Quindi, quando vi siete conosciuti, Sorina? 2 anni fa, mi dicevi? Quasi 2 anni fa, sì. È state insieme ormai da allora. 2 anni, sì. Senti, com'è questo amore multiculturale? Un amore multiculturale, vabbè, ma bello, come deve essere bello. Bello, sì, bellissimo. Non è che ci sia tanta, non c'è tantissima differenza. C'è qualcosina, ma c'è meglio così, dove poi si fa la, ad esempio, Piero, ti viene in mente qualcosa che hai notato in lei che magari non avevi riscontrato nelle ragazze precedenti? Vabbè, a parte la personalità, ecco, più legata alla cultura. E tu, Sorina, hai notato magari in lui qualcosa che nei ragazzi rumeni non c'era? Ad esempio, si dice che i ragazzi italiani sono molto così galanti, sono molto galanti, non lo so, si sente dire, la mia amica mi dicono, io tutti questi galantuomini ancora non l'ho trovato, ma lancio la competizione aperta, è aperta, contattateci. Però ecco, ad esempio, anche tu l'hai notato, è chiaro che poi sono sempre esperienze personali, sì, tutto cambia. Sì, sono esperienze personali, ma comunque anche, cioè nel senso ognuno ha la sua personalità, però una cosa che si sente forte è che loro hanno un amore vero, non lo so, un amore più... Una passione vera. Più passionale. La passione, più allora passionale. confermi sì, la... passionale. Sì. Leandro, hai sentito? Passione! passione, ah, questo ci piace. Ecco, voleva sentire quello, ecco, perfetto. Turmindrang. Ulmaron. Senti, ma salutiamo, abbiamo Angelo che ci saluta e ci chiede se leggiamo tutti noi, Angelo, leggi anche tu con noi, chiamaci, e ancora salutiamo Fiorella e Martina, ciao ragazze. Allora, dato che leggiamo, io vi leggerei pure una poesia. Aha, attenzione, perché voi dovete sapere, tra l'altro Piero aspetta, molto facciamo parlare stasera, siamo è stata la parola passione che come mi ha scardinato tutta la trasmissione. Svegliato Leandro. Mi hanno svegliato. E poi ti teniamo, la domanda ce l'hai, tra un po' torniamo da te, però ecco Leandro, che cosa ci volevi leggere? Perché Leandro, come avete notato, questa voce molto calda. La voce calda. Verdammt. Allora, la poesia Lo straniero di Baudelaire. Dimmi, enigmatico uomo, chi ami di più? Tuo padre, tua madre, tua sorella, tuo fratello? Non ho né padre, né madre, né sorella, né fratello. I tuoi amici? Usate una parola il cui senso mi è rimasto fino ad oggi sconosciuto. La patria? Ignoro sotto quale latitudine si trovi. La bellezza? L'amerei volentieri, ma è una dea immortale. Loro? Lo odio. Come voi odiate Dio. Ma allora, che cosa ami, meraviglioso straniero? Amo le nuvole che passano laggiù, laggiù, le meravigliose nuvole. Eh? Wow, dai, ci ha fatto un po'. Ci ha regalato un momento di poesia, ci è piaciuto molto. Ragazzi, ci stiamo avvicinando verso l'ora di chiusura, quindi io vi comincerei a invitare a pensare al colore da dare a questa trasmissione. Abbiamo avuto questa bellissima testimonianza di Sorina, che appunto, come un po' tutti noi, ha avuto dei momenti duri nella vita, ma ecco, affrontati, ha avuto paura di arrivare, di sentirsi sola, però adesso ecco, hai trovato un fidanzato che ti vuole bene, hai una famiglia vicina, c'hai una cerchia di amici, insomma, te la sei cavata di lusso. Dai, dai, quale colore ti viene in mente? Sì, anche verde. A te, Piero. Ma tu proprio, cioè, di come poi dice, no, le idee chiare. Perché il verde? Il colore della speranza per me. Quindi... Sono d'accordo, avevo pensato allo stesso colore. Allora ci abbiamo un colore per bene questa sera. Va benissimo. Piero, concordi col verde? Sì. Va bene, quindi tu poc'anzi, scusami, ti ho interrotto, ma dicevi che la sincerità è una cosa che hai notato particolarmente. A differenza delle ragazze che hai avuto di prima. Okay. Non ho mai avuto ragazze prima. Tra ragazze che conosco. Bene, quindi bene. È stato un colpo di fulmine. Sì. Diciamo di sì. Adesso metteremo le foto, perché poi vedete, Sorina è una meraviglia. Oh, però ti è andata bene, la prima proprio ti è andato bene. Bravo, bravo Piero. Vabbè, non ho mai avuto un ragazzo perché non l'ha voluto lui, cioè dillo. No, perché Piero è un bel ragazzo, insomma, mo famo a capire che sia tutto chiaro. Sì. Senti, che dite? Allora dobbiamo salutarci, ci siamo quasi. Sì, infatti. Volevamo mettere una canzone per salutarvi questa sera, che innanzitutto appunto ricordiamo, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, anche Maria e Giuseppe da Menfi. Grazie assai ragazzi. E grazie veramente a Sorina e a Piero di essere stati ospiti con grazie noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Sì, grazie. Ci hai raccontato questa bellissima storia. Oh, Rossella, ti ho interrotto. Non mi ha interrotto. No, concordo appunto di averci fatto vedere un punto di vista completamente diverso dal nostro e che ci arricchisce, insomma. Sì, ci fa capire un po' cosa significa stare dall'altro lato. Senti, allora io penso che abbiamo una canzone. Abbiamo che una richiesta. Abbiamo una richiesta, esatto. Cioè, ci è arrivata una richiesta da Dragos, che è il fratello di Sorina.